L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro viaggio settimanale all'interno del continente, un programma in collaborazione con Euronet, network di radio europee che ci racconta, ci fa vivere l'Europa da tanti punti di vista. Cerchiamo di seguire un'altra attualità, insomma ne avete sentito parlare anche nei programmi di Radio 24, non solo nei GR, si parla tanto di Europa in questo periodo e non solo, vedi i rapporti con la Libia. Noi cerchiamo altre notizie, cerchiamo un po' di vivere il costume europeo, e potete intervenire in diretta via sms al 349-238-6666, l'altraeuropa@radio24.it, se volete scriverci via mail, oppure le nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, che aggiorniamo in diretta con tutti i link relativi agli argomenti toccati. Partiamo dalla Germania, dove una polemica legata a una tesi di laurea ha fatto tanto discutere l'opinione pubblica. Der wegen Plagiatsvorwürfen massiv unter Druck stehende Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg will seinen Doktortitel dauerhaft nicht mehr führen. Bei einer Wahlveranstaltung im hessischen Kelkheim sagte er: Und nach dieser Beschäftigung, meine Damen und Herren, habe ich auch festgestellt, wie è il ministro Guttenberg, ministro della difesa, apprezzato, insomma bell'uomo, insomma c'è stato, è molto amato dal popolo, però è stato scoperto che questo dottorato di ricerca appunto è stato conseguito con una tesi di fatto frutto di un copia e incolla perfetto di articoli che aveva trovato sui quotidiani, in internet. È stato tecnicamente sgamato, potremmo dire. Insomma, è aperta tutta una discussione perché l'opinione pubblica ha detto ma no, ma come? Sapete, poi il rigore tedesco è stato scalfito. Però, insomma, l'opinione pubblica è spaccata in due. Chi lo accusa, chi lo difende, chi dice ma si è scusato, fanno tutti così. Insomma, una bella discussione, quindi per capire cos'è successo e cosa sta accadendo, abbiamo invitato un giornalista freelance di Radio Bavarese. Diamo il benvenuto a Karl Wilhelm Meike. Ciao Karl. Ciao, sono ciao. Io a Monaco, ciao. Ciao Karl, tutto bene? Sì, tutto bene. Okay. Quindi un po' freddo qua a Monaco, un po' freddo. Ci credo. Ascolta, ma è uso comune presentarsi a un dottorato, all'esame di un dottorato con una tesi frutto di un copia e incolla? Sì. Ma devo cominciare con un fatto privato, perché io sono spesso a Ferrara. Sì. E quando io sono a Ferrara anche il mio barbiere mi saluta sempre, buongiorno dottore, è totalmente normale in Italia. Invece in Germania il dottore, il doctor si dice, è un titolo di onore, si deve lavorare per questo, non tutti devono portare questo titolo, perché io non sono un dottore, perché non ho mai fatto una tesi di laurea alla tedesca. Sì. E lui, il barone, torniamo al barone, ha portato sempre il dottore, e non, come ho detto, è un titolo di onore, e adesso proprio un professore di sinistra, un giurista da Bremen, ha scoperto che quasi tutto è plagiato il suo dottorato. Mm-hmm. E questo, subito dopo è esplorato questo grande scandalo qua in Germania, come ha detto tu prima della introduzione. Certo, quindi, insomma, uno scandalo perché è stato scoperto questo plagio, e plagio che lo stesso ministro ha ammesso. Sì, finora hanno trovato 50, forse 70 pagine di plagiato. Okay. Mai citato nessuno, neanche il suo giornale favorito, quel giornale di Frankfurt, Allgemeine Zeitung, un giornale molto serio, molto di destra, e lui ha citato quasi tutta la sua introduzione e un citato della Frankfurt Allgemeine Zeitung. E proprio per questo, proprio da loro, dalla redazione dei Frankfurt Allgemeine Zeitung, e i lettori sono normalmente di destra, sono molto arrabbiato contro il barone. Mm-hmm. Contro il barone molto amato in Germania. Molto amato, molto amato anche dalla Merkel, che di fatto l'ha difeso e ha dichiarato vabbè, si è scusato, è stato un errore di gioventù, diciamo, ma apprezziamo anche il fatto che insomma abbia fatto un passo indietro. In verità la gente cosa sta pensando di lui? In questo momento si dimetterà o no? E veramente anche per questo sono un po' perplesso, perché lui è così amato. Secondo me lui lascia sognare la gente. Viene da una famiglia molto nobile, molto conosciuto, anche antifascista, questo è anche vero. Ha un comportamento in pubblico come un uomo del mondo, non del paese, parla inglese perfetto, sempre elegantissimo, sposato con una bella contessa di Bismarck, la famiglia di Bismarck, molto molto conosciuta in Germania. Insomma, è un uomo, finora è un uomo di sognare e di grande credibilità, ma adesso hanno trovato questo, non è solo un uomo di onore, ma anche un grande truffatore, secondo me anche un ladro. Insomma, vedi, l'abbiamo detto, insomma, l'opinione pubblica è spaccata in due, perché c'è chi lo ama, c'è chi è pronto a perdonarlo, perché appunto è molto, molto affascinante come personaggio, altri dicono no, si deve dimettere perché ha barato, ha rubato, insomma, è stata una presa in giro. Quindi ci saranno conseguenze, dobbiamo aspettarci che qualcosa accadrà nei prossimi giorni? La Merkel dice sempre lo scandalo è finito, andiamo avanti in pace, amen. Ma secondo me non è così, perché l'era del mondo accademico, l'era del mondo borghese, anche della destra, è molto forte. Anche oggi ho letto per esempio sulla Süddeutsche Zeitung, questo altro giornale molto di grande prestigio, che il presidente dell'Università di Bayreuth, dove lui ha fatto la sua laurea, resta molto arrabbiato contro di lui, perché fatto è un grande insomma, è appunto una grande truffa. Carle, prima di salutarci, tu fai parte di un'associazione di giornalisti che aiutano giornalisti. Sì. C'è anche il sito, che ci puoi dire tu, così non erro la pronuncia. Sì. Il sito si chiama, in tedesco, journalistenhelpjournalisten.com. Ok, perfetto. C'è anche un parte in inglese. Benissimo, abbiamo già messo il link nelle nostre pagine in Facebook. E Carl, di cosa si occupa questa particolare associazione? È una piccola associazione di giornalisti, fondata proprio adesso 20 anni fa, durante la guerra di ex Jugoslavia. E hanno ucciso un giornalista, un collega, un amico nostro nella Croazia, e subito dopo abbiamo creato questo gruppo per aiutare altri giornalisti che sono in paesi di guerra, paesi crisi, per esempio adesso nell'Iran, Iraq, Libia, eccetera, e facciamo grande catena di solidarietà, come Reporter Sans Frontières per esempio anche. Perfetto, complimenti, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao Carlo, grazie, buon sabato. Grazie. Ciao. Adesso ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, e poi partiamo per fare il giro d'Europa con gli sci, senza toglierli mai. Europost-it. Una foto al dottore degli animali. Il lavoro dei veterinari è molto importante e l'Europa vuole celebrarli. Il 2011 è l'anno mondiale dei veterinari e per l'occasione bisogna fotografarli. La Direzione Generale sulla Salute e i consumatori della Commissione Europea e l'Organizzazione Mondiale per la Salute degli Animali invitano tutti i fotografi, professionisti e amatoriali da tutto il mondo a partecipare a un concorso fotografico per attirare l'attenzione sull'importanza e l'utilità della professione del veterinario. Verrà scelto un vincitore per ciascuno dei 5 continenti, che vincerà 1000 euro di attrezzatura fotografica. I vincitori verranno presentati con i loro premi durante la conferenza della Settimana Veterinaria dell'Unione Europea il 19 e 20 maggio 2011 a Bruxelles. Il vincitore assoluto, scelto fra 5, verrà annunciato durante la 79esima sessione generale sulla salute degli animali il 22 maggio 2011 a Parigi, in Francia. Ciascun partecipante può presentare un massimo di 3 fotografie sul tema «I veterinari nella tua vita quotidiana». Avete tempo per mandare le vostre foto fino al 31 marzo 2011. Trovate tutte le regole su vetsinyourdailylife.org. L'altra Europa. Si chiama Pietro Simonetti, vive in Colorado, anche se è nato a Biella, ma vive in Colorado da più di 15 anni, prima per studio, poi per professione. È un amante dello sci, anche dello sci estremo, insomma ha disceso tutte le montagne del Colorado, della California, il Kilimanjaro, insomma si è divertito in giro per il mondo con le sci, e poi ha ideato questa strana impresa, Carving Europe è il nome, e l'idea è quella in 15 giorni di riuscire a sciare in 30 nazioni europee. Il programma è semplice: ci si alza la mattina, si fa una sciata, si sale in macchina, si cambia nazione, si scia di nuovo, di notte un altro trasferimento, così per 15 giorni, tentando di sciare da Londra a Tirana. Tutto l'itinerario lo potete trovare sul sito ufficiale dell'impresa, che vi do subito: www.acrosstheatlas.com, che abbiamo già pubblicato sulla nostra pagina in Facebook. Pietro in questo momento è sugli sci, non so in quale parte d'Europa, ma soprattutto è in collegamento con noi. Ciao Pietro. Ciao Federico, ciao Italia, come state? Noi molto bene, voi? Benissimo, beh, siamo un pochino stanchi, ti devo dire, abbiamo appena iniziato, però già si vede che questa è un'impresa molto molto difficile. Allora, in questo momento dove vi trovate? Siamo a Tartare, in Andorra. Ok, quindi state toccando la Spagna. Siete partiti da un paio di giorni, se non erro. Qual è stato l'itinerario fino ad ora? Abbiamo fatto l'Inghilterra prima, due giorni fa, poi la Scozia ieri. Oggi abbiamo l'Andorra e la Spagna, e poi domani siamo in Italia, Francia e Svizzera. Fantastico. Allora, il tutto funziona così: siete un equipaggio a bordo di una Panda, se non sbaglio. Sì, abbiamo la Panda, dire il vero, la prendiamo a Torino. Giustamente. Qui adesso abbiamo preso un auto noleggio, perché poi prenderemo l'aereo stasera e veniamo in Italia. È una sorta di sfida contro il tempo, e non solo, perché vi troverete a sciare anche in zone dove solitamente uno non immagina che si possa sciare. Avete sciato a Londra, giusto? Sì, abbiamo sciato a Londra, è stato molto molto interessante, perché io non ho mai sciato in un posto così. È praticamente un grosso edificio dove c'è tutta la neve artificiale, però hanno gli ski lift e tutto, si sale e poi si scende, tutto chiuso. Ok, e poi tutto l'itinerario lo potete trovare sul sito, è molto bello, ci sono tappe particolari, vedi Tirana, dove anche lì non esistono impianti sciistici, e so che dovrete scalare una montagna per poterla poi scendere dopo sì. Sulla neve, così in Macedonia, così in Polonia, dove farete un comprensorio sciistico, dove vi porteranno sulle piste a cavallo, ma al di là dell'impresa sportiva, qual è il vero significato di questo strano tour che ti sei inventato? Sì, beh, il significato è quello di vedere comunque tutte queste diverse culture, di come intendono lo sci, che è molto interessante. Ad esempio, gli inglesi, poverini loro, non hanno le montagne, quindi devono intenderlo il chiuso. E il secondo lato è quello ecologico, nel senso che vogliamo anche piantare degli alberi nell'Europa dell'Est, per appunto sopperire a tutte le emissioni del gas nocivi che facciamo purtroppo con la macchina, però sono necessari per andare da una parte all'altra. E poi gli incontri con tante persone, che insomma racconterete, vivrete un'Europa molto particolare e da un punto di vista tutto vostro. Sì, sicuramente, perché è bellissimo comunque già solo in poche nazioni che abbiamo toccato vedere la differenza proprio di cultura, ma anche di cibo, di personalità, è veramente una cosa eccezionale. Ecco, da biellese, trasferito però ormai negli Stati Uniti da anni, di nuovo in Europa, come ti senti? Cioè, stai vivendo la tua Europa da italiano, da americano, da uomo del mondo, come ti senti in questo momento? È molto bello per me tornare, perché vedo tante cose non sono cambiate da quando le ho lasciate. E quindi è interessante rivederle sia con gli occhi da americano sia con gli occhi da italiano. Ok, insomma, e siete solo all'inizio, perché insomma questo viaggio è appena partito. Ricordiamo www.acrosstheatlas.com, il sito ufficiale con l'itinerario, anche tutti i link per contattarvi, perché si può venire a sciare con voi. Sarete in Italia, certo, quando? Certo. Ad esempio domani saremo a Cervinia, quindi sì, assolutamente venite a trovarci. E poi il 1° marzo saremo a Cortina, quindi venite anche lì se volete, e poi potete seguire, come ha detto Federico, sempre sulla pagina web, ci mettiamo tutti i blog e anche le foto, eccetera. Perfetto, buon viaggio, buona sciata. Ciao Pietro. Grazie Federico. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. La nuova Europa dei giovani artisti ungheresi. L'Ungheria ha una lunga storia artistica. La nuova scena di giovani artisti ungheresi sta cercando di conservare questa identità culturale rivitalizzandola. A Potenza, a partire dal 4 marzo, si potrà vedere un excursus interessante sulle opere di alcuni giovani artisti ungheresi, che hanno cercato di interpretare il loro passato anche più recente in 60 opere. La mostra si intitola La Nuova Europa, giovani artisti ungheresi, e si potrà vedere alla Galleria Civica di Palazzo Loffredo a Potenza fino al 1 maggio. Per saperne di più, comune.potenza.it. My name's Rob Hopkins, and I'm the author of The Transition Handbook, From Oil Dependency to Local Resilience. And this is a litre of oil. Oil has become the lifeblood of how we feed, entertain, and house ourselves. Indeed, it's what makes our modern lifestyles possible. This bottle of motor oil. La voce che state ascoltando è quella di Rob Hopkins. Stiamo cambiando completamente argomento, stiamo parlando di transizione, un concetto nuovo, un concetto che sta avendo un forte impatto. Si parte dall'Inghilterra, ma anche in Italia sta succedendo qualcosa. Si parla di transizione come spostamento, come andare verso un nuovo modo di sostenibilità ambientale. Si può vivere senza petrolio? Rob Hopkins ha la sua risposta, che racconta con un manuale che si chiama Manuale Pratico della Transizione, che si racconta con una cittadina che si chiama Totnes. Siamo in Inghilterra, una città verde, una città perfetta, è stata raccontata da Enrico Franceschini su Repubblica qualche giorno fa. Ma questo concetto, questa transition anche in Italia appunto sta partendo, sta mettendo piede, sta germogliando, e tanto che oggi si tiene a Bologna un Transition Italia Day. Insomma, per capire questo movimento, che cos'è questa teoria, cos'è questa pratica, abbiamo invitato la cofondatrice di Transition Italia. Diamo il benvenuto a Helen Berman. Ciao Helen. Pronto, buongiorno Federico, un piacere sentirti. Grazie a te. Allora, non è facile raccontare, far vedere il significato di questa parola, di questo concetto di transizione, ma tu sicuramente ci puoi aiutare. Tu sei stata a Totnes? Io sono stata a Totnes diverse volte e ci sono stata anche proprio portando in questa fantastica cittadina dei gruppi di italiani che erano veramente molto curiosi di scoprire cosa stava succedendo da quelle parti, proprio seguendo la pista di quello che proponeva per l'appunto la transizione. Per cui la transizione è veramente, a mio avviso, un concetto assolutamente che ha una sua magia, in quanto innanzitutto cerca di guardare in faccia con coraggio ai cambiamenti che stanno avvenendo, senza chiudere gli occhi, ma cercando di trasformare quelle sfide, quei fattori che ci troviamo dinanzi e soprattutto che vediamo anche molto percettibili tutti i giorni, ma anche semplicemente guardando le notizie alla televisione piuttosto che sentendo la radio, guardando internet, leggendo i giornali, quello che sta succedendo a livello anche di dinamiche mondiali. Quindi ci sono delle cose che andranno a cambiare e stanno già cambiando, sia a livello sociale ma anche a livello ambientale, piuttosto che soprattutto delle forti riflessioni che vengono fatte su una futura disponibilità di energia che deriva dalle fonti fossili. Certo, andiamo nel pratico. La domanda è: si può vivere senza petrolio? A Totnes si tenta di dare una risposta, no? Esatto, con fonti rinnovabili energetiche, un'attenzione ai consumi, al riciclo, e che uno immagina cose tutte anche tristi e faticose, invece ne viene fuori uno spaccato proprio di vita molto particolare. Helen, stai lì però, perché abbiamo invitato anche un abitante di Totnes. Diamo il benvenuto a Dan Luli, direttore di una delle scuole di inglese della città. Ciao Dan. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. È davvero la città perfetta, Totnes? È una cittadina bellissima. Io sono lì da un anno adesso. Un posto amichevole con, come ha detto Helen, con questo transition town, che è una cosa che interessa non solo gli abitanti lì, ma anche i turisti che vengono a visitare solo per vedere questa esperienza, questo esperimento che stanno facendo lì. Ecco, esperimento che concretamente tu cosa vedi, cosa vivi, cosa fai, cioè come questa transizione, come viene resa in pratica giorno per giorno? Ma giorno per giorno, Totnes per esempio ha la sterlina di Totnes. Sì. Per incoraggiare persone di comprare cibi locali, cibi peschi che vengono dall'aria, allora per non usare supermercati, per non usare il petrolio, eccetera. Questo è solo un esempio. Certo, e quindi poi so tanti orti, no? C'è proprio un atteggiamento diverso, l'autoproduzione ma anche il commercio che tu ci stai raccontando, anche usando una moneta locale che diventa una sorta di oggetto di scambio, ma per cercare di avere un impatto minimo soprattutto in quello che è il trasporto, ma diventa una vita più faticosa? No, siccome si sente il... quest'idea, questo concetto di transition si sente nel tutto Totnes, fra le aziende locali, fra gli abitanti, anche fra i turisti e molti studenti stranieri che anche vengono a Totnes per vedere quello che stiamo facendo lì. Ok, Dan, grazie davvero per averci dato un assaggio della tua vita, ciao! Helen, insomma, un'esperienza un'esperienza estrema quella di Totnes o un'esperienza che può diventare una normale quotidianità? C'è da precisare che chiaramente probabilmente la transizione non ha potuto che nascere a Totnes, perché storicamente Totnes una volta era una sorta di comunità hippie, per cui ci sono ancora tanti residui che indicano, come dire, lo suo passato, per dire anche molto all'avanguardia in quanto a idee di tipo ecologico. Però per dire, quello che ha messo in piedi Totnes è diventato assolutamente proprio evolutamente un modello replicabile anche da altre realtà locali, ma soprattutto per una sorta di fenomeno di contagio che è riuscita a creare, in quanto per dire, soprattutto quando altre comunità, sia in Inghilterra piuttosto che anche da altre parti del mondo, vedevano cosa stava succedendo a Totnes, una di quello che era il movente più forte era proprio vedere loro a Totnes stanno attuando dei cambiamenti, stanno ricostruendo la comunità, stanno facendo delle cose bellissime e si stanno soprattutto divertendo un sacco, quindi proprio una sorta di coinvolgimento dello status quo, no? In genere noi per dire, parliamo sempre, quando parliamo anche di tematiche ambientali e sociali, c'è sempre una tendenza all'autoflagellazione. È vero. E infatti è quello che chiedevo anche lui prima a Dan. Tra l'altro, insomma, c'è veramente una trasformazione anche delle abitudini quotidiane, poi ci sono alcune chicche, leggevo di questi funerali ecologici che però non ho voluto approfondire. Sì, la transizione anche nell'aldilà, così dire. No, nel senso che è stata una cosa, per dire, quando io ho visitato Totnes sono rimasta abbastanza impressionata, in quanto proprio sulla High Street, che è la strada principale dove ci sono la maggior parte dei negozi, io passavo più o meno quotidianamente vicino al negozio, dicevo, e non capivo bene cosa proponeva, vedevo delle scatole. Poi un giorno ho detto, ma io devo fermarmi un pochino meglio e capire cos'è, e ho scoperto che era un centro di funerali ecologico, per cui proponeva delle urne in cartapesta piuttosto che delle bare fatte in materiale compostabile, per cui per dire, in effetti avere anche questo approccio anche su, per dire, su delle tematiche che per noi magari per certi versi possono essere anche molto tabù, è stato veramente una cosa mi ha fatto sorridere, insomma, che è un po' lo spirito anche che c'è in parte dietro a questo importante movimento. E Monteveglio, siamo in Italia, il Consiglio Comunale ha deliberato la fuoriuscita dal petrolio e dai combustibili fossili come politica prioritaria dell'amministrazione, è uno dei primi comuni che ha aderito al movimento di transition. E velocemente, Helen, cosa succederà oggi a Bologna, di cosa parlerete e qual è l'obiettivo di questo incontro? Ok, allora oggi qui a Bologna infatti sono già nella sala dove c'è grande fermento ed è il nostro Transition Italia Day. principalmente inteso come un momento anche di incontro di tutte le persone che a livello nazionale stanno agendo nelle proprie iniziative locali, quindi un momento di confronto, di stare insieme e soprattutto di trovare delle nuove energie per far decollare a livello nazionale in modo veramente straordinario questa iniziativa. Quindi oggi pomeriggio cercheremo soprattutto di confrontarci in modo anche molto molto creativo in che modo mettere in piedi una sorta di festival o una conferenza della transizione, magari ancora in questo anno se possibile, come viene già fatto in Inghilterra. C'è la Transition Conference annuale, che è un momento di grande energia con tanti workshop, con tanti momenti open space dove veramente si dà spazio e libertà all'espressione della creatività che c'è nella gente, e ti posso assicurare, quando creiamo spazio questa creatività riesce ad emergere ed è una cosa veramente bellissima. E certo, e trova concretizzazione. Grazie davvero Helen, ricordiamo il sito transitionitalia.wordpress.com. Ciao, buon sabato. Grazie Federico, a presto. Ciao, ciao. A presto, ciao. Europost-it. Anno nuovo, donna nuova. Donne che ispirano l'Europa. La svedese, la spagnola, la tedesca e la bulgara. Questa volta però non si tratta del solito calendario, perché loro, le donne, rappresentano l'orgoglio del vecchio continente. Nonostante la loro diversa origine, ogni pagina del calendario racconta una storia che ha un tema ricorrente: la lotta contro la discriminazione femminile. Il concorso Women Inspiring Europe, promosso dall'EIGE, l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, ha decretato le 12 vincitrici, una per mese, tra le tante candidature dei 27 Paesi membri dell'Unione. Donne di tutta Europa, preparatevi, perché l'EIGE sta già pensando all'edizione 2012 del calendario. Le candidature sono state aperte lo scorso 1 dicembre e lo rimarranno fino al 31 maggio 2011. Per informazioni, eige.europa.eu. Uguaglianza di genere in Europa. La strada è ancora lunga in occasione dei 100 anni della festa della donna, e questo è il tema scelto da Euronet questa settimana, un tema comune che andiamo ad affrontare con tutte le radio legate a questo network. E con noi per parlare della donna e della risorsa della donna in Europa abbiamo convocato e invitato Silvia Costa, deputata del Parlamento Europeo della Commissione Diritti Donna e Uguaglianza di Genere. Buongiorno Costa, benvenuta all'Europa. Buongiorno, grazie per questo invito. Un'altra Europa che lei conosce bene, perché insomma frequentando... Sto imparando a conoscerla meglio. Perché insomma si può... Questo lo chiedo sempre quando ho con me dei deputati, no? Che è sempre visto un po' il Parlamento Europeo come una cosa lontana, una cosa fredda, una cosa algida. Invece anche da lì, da dentro al palazzo si può vedere, sì, fare, raccontare un'altra Europa, vero? Non vi è dubbio. Intanto una piccola premessa: noi siamo le donne in Parlamento Europeo, sono il 35%, quindi sono una presenza, devo dire, significativa. Tra l'altro in questa legislatura abbiamo molte più donne tra le presidenti di commissione, nella stessa ufficio di presidenza del Parlamento. Insomma, c'è un'autorevolezza distribuita. E seconda cosa, diciamo che se solo scorriamo l'agenda di questo primo, chiamiamolo, anno e mezzo, insomma, di legislatura, io sono appunto in tre commissioni, fra cui la commissione donne, e lei pensa che ci siamo occupate della direttiva, abbiamo approvato quattro direttive importanti: quella sulla maternità, quella sulla tratta degli esseri umani, sull'ordine di protezione europeo, sulla parità di trattamento nell'ambito del lavoro autonomo fra uomini e donne, quindi anche fra coniugi coadiuvanti, e siamo occupati di povertà, di donne migranti, della pensione, insomma, come vede, tematiche che sono, tra l'altro, lei sa che ormai la normativa nazionale per il 75% dipende dalle direttive europee, quindi certo, l'Europa è sempre più presente, certo, anche nel nostro paese. Qualche volta il nostro paese non se ne rende molto conto, questo è un altro problema. Stavo guardando un po' il calendario dei suoi prossimi impegni. Il 2 marzo sarà a Bruxelles, dove proporrà la visione di questo documentario di Roera, sì, Zanardo, Il corpo delle donne. Il 4 marzo invece a Roma sarà presente la consegna del premio Immagini Amiche 2001, promosso dall'Unione Donne Italiane, premio che vuole contrastare la tendenza di televisione e pubblicità ad abusare dell'immagine delle donne, quindi un impegno in prima linea. Però so che c'è una parola chiave che lei utilizza molto nei suoi interventi, nella sua politica, che è la donna come risorsa. Esattamente. Cosa vuol dire? Mi è piaciuto che lei prima l'abbia detto, parlando del precedente argomento, molto interessante. va proprio capovolto un po' lo sguardo. Io dico sempre che la donna in realtà è un soggetto forte, spesso messo in condizioni di debolezza. E se guardassimo alle politiche, chiamiamole di parità, di promozione della condizione delle donne, eccetera, sotto questo profilo, cioè di una risorsa di competenze, lei sa che ormai sono più le laureate che laureati, certo. Di duttilità, di capacità, tra l'altro anche di generare figli, e penso che oggi il tema dell'invecchiamento e dell'andamento demografico del nostro paese, che è il paese che ha la più bassa natalità al mondo, sia un problema non delle donne, no? Sia un problema proprio di futuro della nostra società. Penso al fatto che le donne sono più longeve, quindi possono anche avere più tempo, diciamo, per poter anche dare il loro contributo alla società. Penso anche a da quante donne dipende il welfare e il benessere di tutti. Insomma, io credo che questa risorsa, lasciata un po' troppo fuori dalla porta, discriminata, sia veramente un impoverimento della società. E ci sono anche dati comunque che fanno pensare, no? Per esempio, solo l'11% delle posizioni manageriali nei consigli di amministrazione delle 300 maggiori compagnie europee sono occupati questi posti da donne. Esattamente. È significativo. Lei sa che in questo momento c'è un interessantissimo dibattito in Europa. Due paesi, la Norvegia e la Francia, hanno già approvato, la Norvegia già da più, mi pare, 2 o 3 anni, la Francia quest'anno, questa norma che è in discussione nel nostro Parlamento. Mi fa molto piacere vedere su questo tema un'iniziativa, mi sembra anche bipartisan, dei parlamentari italiani, quella cioè di prevedere, anche se transitoriamente, delle quote, cioè una soglia di presenza obbligatoria di donne nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e private. È una iniziativa che però adesso ho visto un po' al palo, il governo pare che la voglia rimandare addirittura di 10 anni, insomma, purtroppo ci sono state delle non adesioni anche di importanti forze, diciamo, organizzazioni sociali. Mi sembra che anche Confindustria sia un po' come dire, critiche, ma io penso che se ci si guarda intorno, credo che la condivisione delle responsabilità anche a quel livello forse umanizza un po' anche la vita di tutti. Non mi sembra che quello che è successo, il disastro della finanza internazionale, fosse dipesa molto dalle donne, no? Quindi insomma... Che festa della donna si respira dall'Europa, nel senso, usciamo un attimo dal nostro orticello, sì, certo, dal nostro paese, e c'è uguaglianza anche in questo, nel vivere questa giornata. Guardi, l'Europa ci è data un traguardo abbastanza ambizioso approvando questo programma che si chiama Europa 2020, quindi Europa 2020, sì. Dopo la strategia di Lisbona, che era tutta giocata sul miglioramento dell'occupazione, più sviluppo, più conoscenza, diciamo, e più ricerca, ci siamo accorti che molti di questi traguardi non sono stati toccati nemmeno per le donne, però con grandi differenze. Ecco, il punto è questo, la differenza fra paesi, anche nuovi paesi, o per esempio anche l'Italia, pensiamo soltanto che l'Italia ha come quota di occupazione femminile rispetto al 60%, che era il benchmark dell'Europa per il 2010, raggiunto nella media europea, ma noi siamo al 48%, ma con una distanza grandissima, grandissima e crescente tra nord e sud. Nel sud abbiamo poco più del 30 e nel nord abbiamo invece dei dati che sono assolutamente europei, quindi noi abbiamo un problema di non allineamento anche fra i diversi paesi. Direi che i temi che sono oggi più messi nell'agenda politica come più rilevanti sono: primo, il ruolo delle donne dentro questa crisi. Prima sentivo che parlavate di un tema molto interessante, che è quello di legare anche le competenze, le nuove competenze, il nuovo modo di produrre e di consumare, e anche, diciamo, di utilizzare lo stesso territorio, per esempio rivedendo processi alla luce anche della sostenibilità. Certo. Tutto il tema delle nuove competenze in questo campo, a mio giudizio, dovrebbe vedere un grande investimento sulle donne, perché sembra che rispetto ai temi, a questi temi specifici, l'energetico, diciamo tutto ciò che è il solare, e tutte queste nuove forme di produzione che vedono l'Italia ancora molto arrancante, salvo delle zone di eccellenza, e sarebbe bene qui fare un grande investimento sulle competenze femminili, riorientare anche un po' forse le uscite professionali. L'altra grande questione è quella della conciliazione famiglia-lavoro, che resta una questione importante, nodo, devo dire, non solo nostra. Noi abbiamo approvato questa importante direttiva sulla maternità come Parlamento, adesso bisogna vedere se la direttiva che farà sulla nostra risoluzione della Commissione sarà coerente, in cui chiediamo che almeno ci sia, come dire, una soglia comune di garanzie, di tutele e di maggiore conciliazione in tutta Europa. Noi oggi siamo 27 paesi, quindi la direttiva del 92 si rivolgeva a un numero molto inferiore di paesi. Per esempio prevediamo 20 settimane, una maggiore tutela della salute e della sicurezza, insomma, sul lavoro, il congedo di paternità. Esatto, anche. Tante problematiche e tante prospettive. Onorevole, grazie davvero. Ricordiamo il sito udinazionale.org per chi volesse informazioni, anche per vedere di cosa si tratta questo, sì, di questo concorso. Ci tengo anche a dire che le donne hanno dato anche in Italia una grande, hanno fatto sentire con molta forza il 13 febbraio la loro voce, ero fra queste, e per dire che accanto al tema delle politiche concrete, su cui mi pare che il governo, insomma, sia un po' reticente rispetto al tema delle donne, non mi pare che sia pure nella priorità dell'agenda, c'è il tema che lei ha detto all'inizio, che se l'immagine simbolica è così deturpata e diciamo assolutamente offesa delle donne, non si considera la donna come un soggetto attivo e un soggetto naturalmente che ha la sua visione del mondo, ma soltanto gli si dà una visibilità che spesso è assolutamente molto mortificante. Quindi il tema di riprendere la parola come donne anche su questa questione della sua rappresentanza e sulla sua modo di essere rappresentato in Paese è un tema fondamentale anche in Europa. E certo, e noi maschietti credo che insomma dobbiamo metterci del nostro per questo. Grazie onorevole, buon lavoro e buona Europa. Grazie, tanti auguri, arrivederci. Ti lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere. Perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni. Volevamo dedicare un pezzo ad Anna Oxa. Abbiamo sbagliato file. Cioè arriva, adesso è un duetto. Abbiamo preso la versione infinita. Arriva Anna Oxa. Fa un po' ridere partire da Fausto Leali per parlare di Anna Oxa e arrivare al Kosovo. Perché? Perché l'ex marito di Anna Oxa è diventato presidente del Kosovo. La cosa è passata un po' in sordina anche sui quotidiani, perché voi dite, vabbè, che notizia è? È una notizia vista soprattutto dal di dentro, perché il personaggio in questione, Tar Pacolli, è personaggio molto discusso, e voi lo sapete, quando andiamo là, in quella zona, nei Balcani, seguiamo il lavoro dell'osservatorio Balcani e Caucaso, balcanicaucaso.org, e abbiamo un po' quella che è la nostra voce ufficiale. Diamo il benvenuto anche oggi a Mariola Rucai. Ciao Mariola. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ma Anna Oxa è conosciuta in Kosovo, Albania? Sì, certo. Fa parte dei personaggi famosi del cinema albanese. Eccola, aspetta che... È un orgoglio nazionale. Infatti, perché lei... È arrivata, dopo finalmente abbiamo cacciato Fausto Leali, è arrivata anche lei. Mariola, a parte gli scherzi, a parte questo matrimonio che poi si è concluso cantando Ti lascerò, perché questo Pacolli è diventato presidente? Cosa c'è dietro? E soprattutto perché non ci sono le folle esultanti in strada? Sì, innanzitutto Pacolli è un uomo d'affari, un magnate appunto senza uguali, insomma il più ricco tra gli albanesi in Kosovo e probabilmente anche in Albania. È un uomo politico molto influente che però non viene visto in Kosovo come un rappresentante del popolo, in quanto è... diciamo un cosmopolita per motivi economici, quindi è uno che ha anche ottimi rapporti in Russia, quindi con gli oligarchi, soprattutto perché tutta la sua carriera come uomo d'affari, insomma buona parte dei suoi investimenti hanno avuto luogo proprio nello spazio ex sovietico, da Cremlino alle repubbliche dell'Asia centrale, insomma di tutto, del Caucaso. Sicuramente un uomo, infatti in Russia è stato anche varie volte accusato di corruzione e di tangenti, insomma, perché si ritiene che molti degli appalti che ha ricevuto, appunto, che ha ottenuto, li abbia ottenuto per queste vie qua. Certo. In realtà è un passato piuttosto scuro il suo, però sicuramente è un uomo molto importante e con grossi legami, insomma, sia in Occidente che in... E in curriculum ha già attività politica o è la sua prima esperienza? In realtà il suo partito esiste dal 2006, appunto lui è andato in politica promettendo proprio di fare quello che ha fatto altrove, quindi nell'ex Unione Sovietica, in Kosovo, però non ha convinto molto i kosovari e nelle ultime elezioni, nonostante delle ottime alleanze con degli altri gruppi politici, è riuscito a ottenere soltanto il 7% del appunto perché viene vista come una personalità sui generis e non molto in linea con i dettami del nazionalismo, insomma, e del provincialismo del Kosovo, dopo tutto. Mm-hmm. Appunto perché grazie ai suoi ottimi rapporti con la Russia, che è appunto il produttore principale della Serbia, in vista dei prossimi negoziati tra il Kosovo e la Serbia, non promette bene, tra virgolette, appunto per gli interessi del Kosovo visti proprio dal basso, da parte della popolazione. Certo, insomma, la popolazione che, insomma, la disoccupazione sfiora il 40% ormai all'interno del Kosovo, quindi c'è tanta preoccupazione. www.balcanicaucaso.org per approfondire con tanti argomenti, con tanti articoli questo argomento. Ciao Mariola, come sempre grazie, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Grazie. Buon sabato. Ciao, ciao, ciao. Buon sabato, alla prossima. Tør du udforske det ukendte i jagten på skjulte skatte? Laser! Tag på det vildeste eventyr i templet, årets nyhed i Legoland. Skyd dig igennem de mange farer og se, om du finder skatten. Køb billetter og miniferie på Legoland.dk. Benvenuti a Legoland, questo è lo spot ufficiale del parco dei divertimenti, interamente costruito con il Lego. Siamo a Billund, in Danimarca, ma Billund, la città giocattolo, è diventato un progetto fotografico di un fotografo italiano, si chiama Roberto Boccaccino, ha inaugurato una mostra il 25 febbraio, quindi è una mostra appena aperta, dove ha fotografato Legoland, ma soprattutto ha fotografato anche Billund, la città dove c'è il parco dei divertimenti, questa città di 8.000 abitanti, e ha trovato tantissime assonanze. Un po' l'idea è nato prima l'uovo o la gallina, nel senso è nato prima Billund o Legoland, e con le sue fotografie ha cercato di dare una risposta a questa domanda. Roberto è qua con noi, ciao Roberto. Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao, buon sabato. Allora, intanto ho appena caricato sulle nostre pagine in Facebook un po' delle tue fotografie, ma raccontaci, raccontaci l'origine di questo progetto. Sei un appassionato di Lego? Sì, anche, nel senso che quando ero bambino ovviamente giocavo tantissimo con i Lego, erano tra i miei giocattoli preferiti. Poi ho iniziato a lavorare a questo progetto quando sono arrivato in Danimarca. Sì. Perché sono stato a Billund e ho visto che visivamente era impressionante, cioè era una città incredibile. Al di là, insomma, del lato fotografico, penso che sia abbastanza evidente di quanto la Lego abbia dato forma a una cittadina davvero molto simile a quello che è il giocattolo. Mm-hmm. E quindi volevo un po' cercare di estremizzare questo concetto e ho fatto delle immagini, sono concentrato principalmente non tanto su Legoland, sul parco dei divertimenti, ma proprio sulla città. Certo. Ho fatto delle immagini aeree. Sì. In cui tutto ciò che viene mostrato, quindi principalmente case, abitazioni, l'aeroporto, cantieri, qualunque cosa, ha un toy look, un aspetto da giocattolo. C'è un po' questo gioco che non si riesce mai a capire se sta guardando Legoland o la realtà vera. Questa cosa ha funzionato benissimo poi proprio perché in realtà tutta l'architettura, come è stata rivoluzionata la città dopo l'avvento della Lego, è impressionante, insomma. Roberto, grazie davvero per averci dato un assaggio. Vuoi darci un sito per... c'è forse il sito della mostra, te lo ricordi? Sì, la mostra è al Museo Nazionale di Fotografia di Danese, che si chiama Brands Museum, Brandes, Museum.dk, c'è ovviamente il link, scusa, non l'avevo visto, www.brandts.dk, l'abbiamo già pubblicato anche nelle nostre pagine in Facebook. Grazie davvero Roberto, complimenti per il lavoro perché è molto bello, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Ciao e buon sabato. Grazie a voi, ciao. Grazie a tutti, un grazie a Margherita Ine, a Claudia Carusi che con me hanno scritto la puntata, a Giorgio De Luca in assistenza e a Peter Bescapè alla parte tecnica. Noi come sempre ci ritroviamo qua sabato prossimo, radio24.it per riascoltare la puntata, oppure ci trovate in Facebook. Ancora ciao da Federico Taddia.